benvenuti, abbiamo aspettato qualche minuto perché c'è Marco Mazzei che parlava anche alla tavola rotonda di sopra e comunque quando arriva lo inseriamo tranquillamente. Io sono Maffia De Baggis e ho questo piacere di lasciare la parola a questi fantastici uomini che ho intorno, ma spero anche a voi, perché l'idea di questo pomeriggio, l'incontro, è quello di fare una chiacchierata, cioè provare a fare quello che facciamo tutti i giorni sui nostri blog, rifarlo dal vivo, vedere se funziona, vedere se invece ce la caviamo meglio dietro una tastiera, insomma provare a capire com'è la conversazione di cui parliamo da tanti anni quando viene fatta dal vivo in un ambiente decisamente tradizionale. Giusto per capire, a parte l'ala destra, che quanti di voi hanno un blog? Quanti di voi avete? Direi che è uno di quei casi più chi di voi non sa cos'è un blog? Fantastico. No, perché di solito appunto in queste situazioni si perde tantissimo tempo a definire cos'è un blog, definizione su cui non raggiungeremo mai un accordo, quindi oggi possiamo passare oltre e occuparci di cose più interessanti, tipo come stiamo usando i blog, a cosa servono, come ci aspettiamo che evolvano e tutte le curiosità che potete avere, le difficoltà che incontrate, se ve ne occupate personalmente, se ve ne occupate professionalmente, se è una passione, se ha un senso, insomma, tutta una serie di curiosità che appunto leggendo il blog delle persone che incontri a volte vengono soddisfatte solo in parte. È arrivato Marco, quindi siamo al completo. Adesso facciamo entrare la clac. Non vi mettete tutti lì. Di Mondadori Web Publishing. Poi proseguiamo con Marco Grossi che è responsabile dello sviluppo di Condé Nast. È un caso, si sono seduti vicini, si chiamano uguali. La cosa che a me diverte molto è che Marco è un giornalista e Marco ha un background invece tecnologico. A voi, dopo che avranno parlato, capire quale dei due è giornalista, se non li conoscete, quali invece sono le cose buffe che succedono in internet. In effetti è una cosa che probabilmente non ci siamo ancora resi conto, ma è successa, è il mondo della cultura, il mondo dell'informazione e il mondo della tecnologia, che erano lontanissimi fino a pochi anni fa, si sono avvicinati al punto che appunto oggi abbiamo intorno al tavolo quasi tutti dei giornalisti che però hanno una predisposizione con la tecnologia, una facilità di utilizzo assolutamente insospettabile e questo ci fa ben sperare. Quando parlano, sì, io non ve lo dico. Poi proseguendo abbiamo Sergio Maestrello che è un blogger, come piace essere definito. È anche autore del libro Come si fa un blog e diciamo che grazie a lui ci stiamo chiarendo le idee negli anni, perché una cosa è usare uno strumento, una cosa è riflettere su questo strumento, quindi diciamo che ci dà una mano con Maestrello, perlomeno me l'ha dato e vediamo se siete d'accordo. Abbiamo Paolo Valdemarin, blogger di Evectors e lui invece sta costruendo la tecnologia che usiamo, quindi ci permette di migliorare le cose che possiamo fare, le funzionalità, ma anche lui continua a riflettere quotidianamente su questa strana cosa che stiamo vivendo. E qui invece, passando dall'altra parte, abbiamo Carlo Annese, che anche lui è un blogger, non so se avete capito che la casta esiste davvero, nel senso che è finito il tempo in cui si invita a parlare di blog persone che non hanno un blog, che non hanno neanche ancora ben capito come succedeva fino a poco tempo fa. Carlo è un giornalista della Gazzetta dello Sport e soprattutto è responsabile del blog della Gazzetta che si chiama Quasi Rete. Ultimo, ma non ultimo, Luca De Biase del Sole 24 Ore, anche lui giornalista, blogger approfondimento di giornale in rete che Grazia, essendo donna, mi pregio di e Grazia che appunto un paio di mesi fa, non di più, l'8 marzo, è uscita con una nuova versione e un blog scritto da blogger veri, cioè non da giornalisti, ma da persone che sono state scelte per il modo in cui parlavano di argomenti femminili in rete. Quindi il panel è stato composto, prima di tutto partendo dalla condizione necessaria che tutti quanti avessero un blog da un po' di tempo, perché altrimenti appunto ci si parla addosso. E poi l'idea era quella un po' di raccogliere le esperienze più significative, più di frontiera, sia dal punto di vista dell'editoria, sia dal punto di vista della tecnologia. E a noi piacerebbe iniziare con una vostra domanda, cioè il modo in cui vorremmo organizzare il pomeriggio è che voi chiedete qualcosa e loro rispondono. Non ci siamo preparati nulla perché basta con queste cose, per cui se non c'è la domanda c'è l'amico che le fa, se voi non avete la domanda io ce l'ho, quindi sentitevi liberi. Vi parlo. C'è una domanda. Bye. anche un modo per entrare in comunicazione, in conversazione appunto con tante altre persone. Ovviamente questa possibilità ce l'hai se ti apri, se tieni tutto chiuso, se non pubblichi la tua foto, se hai le tue foto tutte private, se non scrivi niente di te, se non racconti niente, difficilmente entri in comunicazione. Quindi sicuramente c'è questo grande desiderio, voglia di entrare in comunicazione con tante persone, e in questi anni sicuramente il blog e questo genere di strumenti mi ha permesso di mantenere rapporti e conversazioni aperte con un numero e con una qualità di persone che nella vita reale, diciamo nelle comunicazioni reali, ovviamente non avrei potuto. Sulla questione del scrivere per un editore, io lavoro in Mondadori, quindi l'editore è noto. Io non mi sono mai occupato di temi scottanti, nel senso che quando facevo il giornalista a tempo pieno mi occupavo di tecnologia, quindi non mi sono mai occupato di politica né di altre, diciamo, aree nelle quali ci possono essere problemi rispetto a quello che uno scrive, se lavora con l'editore A, l'editore B o l'editore C. Però dico che secondo me questa è la grande sfida che hanno i giornalisti davanti, quello che a volte a me fa un po' innervosire di miei colleghi, diciamo, cartacei, nel modo nel quale si pongono rispetto ai blog, è proprio che, accidenti, io la vedo come la grande possibilità di scrivere, di comunicare, di imparare, di confrontarsi, di crescere. Quindi per chi fa quel lavoro a tempo pieno, soprattutto per chi si occupa di alcuni temi, è il mondo dei sogni. Vedo che però viene colto invece con più, ancora con molta diffidenza. Secondo me noi, chi si occupa di blog, chi fa questo lavoro, quindi che fa poi il blog, ha una sfida davanti nei prossimi anni anche di far vedere al mondo dei giornali, dei giornalisti, che questo è di fatto il loro mondo, cioè che questo è il paese dei baiocchi per chi fa questo. Io sono il tecnico, il marco tecnico. Niente, io forse mi stacco un pochettino dai miei colleghi blog, tra virgolette, perché io ho un blog che è tematico, forse un po' diverso dagli altri. Io ho un blog e mi occupo di vino, la mia passione, per cui mi sono, diciamo così, vino mondo dell'enologia. Visto che, diciamo così, ho sempre frequentato bene o male questo mondo, mi piace molto, eccetera, ho visto che c'è una certa vivacità su internet in questo settore verticale, e ho iniziato a frequentare, a leggere i blog dei miei colleghi, eccetera, e mi è venuto in mente di scrivere. Perché? Perché comunque penso che se uno ha una passione, non c'è un modo migliore di poter esprimere la propria opinione tramite uno strumento libero, che appunto è quello del blog. Avevo questa passione, appunto mi sono interessato, avevo cose da dire, ho aperto il blog e devo dire che la comunità in cui mi muovo io è anche abbastanza, diciamo, ricettiva all'arrivo di nuovi colleghi, tra virgolette. Non ho trovato alcun tipo di ostracismo, non ho trovato alcun tipo di chiusura, e trovo una cosa molto molto bella. Parliamo, non siamo in centinaia, siamo una ventina di blog forse più importanti, e ho trovato una buona accoglienza, ho trovato gente molto vogliosa di aprire, di fare nuovi progetti, di ingrandire comunque il mondo di questo settore specifico di comunicazione, eccetera, per cui sono molto molto contento. La domanda che hai fatto tu, se non mi sbaglio, quello del discorso, la differenza fra avere avere un editore alle spalle piuttosto che essere liberi di poter scrivere. Io proprio pochi giorni fa ho letto un post di una giornalista, enogiornalista, che si chiedeva come mai l'evento di Nitaly di Verona non aveva avuto una grande copertura sul blog da parte appunto dei blogger, al contrario della stampa. E nella discussione che era nata da questo post è stato molto interessante capire che la differenza tra un giornalista che scrive su una rivista e un utente che invece è un blogger che scrive su un blog è probabilmente data dal fatto che un blog scrive solo esclusivamente se l'evento che assiste o comunque l'evento che vuole descrivere ha un qualcosa di importante, un qualcosa che lo sorprende, diciamo così, che è di significativo, una curiosità, un qualcosa di che spicca. Mentre invece probabilmente un giornalista che è inviato, diciamo così, ad assistere a un evento, quale potrebbe essere Vinita in quel caso, si trova tra virgolette forse un po' costretto a dover scrivere dell'evento. Io in realtà rispetto al ruolo dei giornalisti, non sono giornalisti, penso che si muovano bene o male in questa maniera le cose. Per cui quello che è stato detto, quello che è venuto fuori da questo posto è il fatto che essendo blogger, se vado a un evento e la cosa non mi interessa, non c'è niente che mi incuriosisce di particolare e non ci scrivo niente. E probabilmente Vinita di quest'anno non aveva alcun tipo di, peculiarità per smuovere l'attenzione dei blogger, al contrario invece dei giornalisti che probabilmente questa blogger era anche giornalista, che si è sentita in dovere di scrivere qualcosa perché comunque era un pochettino nel suo compito. Perché penso che la grande differenza sia questa. Io come blogger scrivo esclusivamente se trovo un evento particolare che mi incuriosisce, se trovo nel mio caso un vino particolare, un'azienda che si comporta in modo particolare a rete, una notizia strana che mi incuriosisce, che mi permette magari di costruire una storia, o magari mi invento io delle storie, mi faccio delle specie di inchieste sul campo, di analisi di come per esempio le aziende utilizzano internet per promuovere i propri prodotti, il proprio marchio. E quindi sono l'editore di me stesso, mi prendo tutta la libertà di poter scrivere quello che voglio e di poter non scrivere quello che secondo me non è interessante. Io partirei subito dalla prima domanda. Un blog è un diario, sì, nel senso che la forma ricorda inevitabilmente il diario, organizzato in modo cronologico, di conseguenza come un diario gli interventi si susseguono. Personalmente non mi riconosco nel diario quello che si teneva nel cassetto, nel senso che è un sistema di pubblicazione dentro internet estremamente facile, a portata di chiunque senza avere competenze particolari, per cui lo definirei piuttosto un diario delle idee in modo molto generico. C'è chi lo usa per parlare di vino, c'è chi lo usa per parlare di tecnologia, c'è chi lo usa per parlare di sport, tanto per fare alcuni esempi presenti. È un sistema di pubblicazione molto più semplice di quelli che erano disponibili in passato e che non richiede nessuna competenza specifica per realizzare pagine. La modalità di composizione è particolare in qualche modo e condiziona lo stile di pubblicazione. Detto questo, non penso ci possa stare veramente qualunque cosa. Chi parla di cose molto personali è comunque una comunità ristretta, tutto sommato, che lo fa per suo gusto, per passione di raccontarsi e di avere persone che interagiscono in rete. Quanto alla molla, credo sia personale, credo che sia soprattutto curiosità di provare, soprattutto. Chi non ha mai avuto modo di scrivere in pubblico probabilmente può aver voglia di buttarsi a provare. Nel mio caso era curiosità professionale, nel senso che alla fine sono giornalista anch'io e al tempo, quando si sono diffusi i blog, lavoravo nella redazione di Internet News, che era una rivista del settore che in quel periodo cominciava a vivere i primi accenni di una crisi che era quella poi di tutte le riviste tecnologiche in quel periodo. E mi sono interessato ai blog, ho seguito alcuni dei primi eventi che ci sono stati legati alla comunità dei primissimi blogger e mi sono appassionato e ho provato anch'io. Poi il mio blog non ha mai avuto molto a che fare con il mio lavoro, nel senso che era il mio punto di presenza sulla rete, cioè il punto in cui raccontavo qualcosa dal mio punto di vista, senza nessun impegno, senza un obbligo. Il fatto di non avere un editore alle spalle in un certo senso l'ho sentito, sì, perché lavorando in una rivista quello che si scrive è comunque frutto di molte mediazioni. Scrivere su un blog è un modo molto immediato di scrivere. Io avevo già in precedenza un sito personale, il blog mi ha dato semplicemente il contesto per farlo in modo più strutturato, più regolare, più semplice, più soprattutto mi ha dato un sistema di relazioni molto più agevole di quelli che erano diffusi in precedenza, nel senso prima c'erano i forum, c'erano i newsgroup, c'erano molti punti di incontro, c'erano le BBS ancora prima. I blog non sono una cosa nuova, sono forse la sintesi di tante cose che sono state prima. solo che rendono tutto molto più basato sulla persona da un lato e molto più intuitivo, molto più semplice. Per quanto riguarda la MOL, io credo che noi siamo le persone sbagliate per rispondere a questa domanda. Nel senso, in Italia si stima ci siano 300.000 blog, che sono abbastanza per l'Europa, però per dire in Francia si stima ce ne siano 2 milioni e mezzo. Il numero di blog raddoppia ogni 6 mesi nel mondo, per cui è un fenomeno molto grande. Noi siamo poco rappresentativi perché in realtà in linea di massima noi abbiamo tutti i blog che hanno un numero abbastanza ampio di lettori, che spesso sono basati su dei progetti editoriali, che sono scritte da giornalisti in molti casi, quindi da professionisti della comunicazione, mentre la stragrande maggioranza dei blogger ha 10 lettori. Per cui in realtà nella gran parte, per la gran parte delle persone che aprono un blog non è uno strumento per parlare con il mondo, il blog è uno strumento per parlare con gli amici. E questa è l'obiezione che si sente molto spesso da parte soprattutto dei professionisti della comunicazione, che dicono ci sono alcuni blog interessanti perché De Biase scrive cose colte e profonde sul suo blog, oppure leggiamo cose divine, però poi alla fine ci sono i ragazzini che scrivono e quelli non sono interessanti. È vero, la gran parte dei blog non sono interessanti e ci siamo fatti per gli amici di quei blog, per cui sono molto interessanti. Una delle cose fondamentali dei blog è che rappresentano dei nodi di un tessuto sociale, per cui i blog normalmente vengono usati per mantenere delle relazioni. Il 30%, si stima che il 30% dei blog siano privati, quindi non siano resi pubblici, ma siano noti solo alle persone che si conoscono in qualche modo. C'è modo di limitare l'accesso con una parola chiave, oppure c'è modo semplicemente di non renderlo pubblico, per cui di far sì che io, a meno che uno non sappia l'indirizzo del sito, vorrebbe proprio arrivarci per caso, è difficile fare. Però diciamo che la cosa interessante è che per queste persone il driver principale è una relazione di tipo sociale. Quindi noi, per dire, io lo faccio in un qualche modo, io scrivo sul mio blog cose non tanto orientate a divulgarle al mondo fatto di un pubblico anonimo, ma in gran parte lo faccio per parlare a un gruppo che può essere più o meno ampio, di persone che più o meno direttamente conosco. Quindi io metto la foto dei posti in cui vado, racconto determinati eventi, poi magari parlo del mio mestiere, parlo del mio lavoro, ma parlo a un pubblico che non è il pubblico di un quotidiano, è un pubblico che, se quello è il mio blog, se guardate la prima foto è una foto che vi ho fatto adesso intanto che eravamo qua a parlare. Per cui è un posto in cui meno male si racconta, cioè sul mio blog c'è scritto che ieri ho scritto che oggi sarei stato qua e che ieri sera andavamo a cena insieme. Poi magari prima ho parlato di l'uso dei weblog sulla comunicazione interna aziendale, perché è una delle attività che io svolgo. Però il punto è, per la gran parte delle persone, la molla principale è il tipo sociale. E non è io voglio raccontare i fatti miei a degli anonimi. Il fatto è, io ho degli amici con cui ho a che fare e uso il blog come strumento per tenerli aggiornati su che cosa sto facendo. Contemporaneamente uso i loro blog e altri strumenti per sapere cosa loro fanno. Perché mi interessa? Perché siamo amici. E questa è una delle tensioni principali che tiene insieme questo sistema, dove tutti i blogger conoscono pochi altri blogger, però in realtà è una rete magliata in cui comunque le connessioni sono diverse e quindi alla fine le idee possono circolare molto rapidamente di nodo in nodo. Non essendo giornalista non posso dire mai scrivere senza un editore. Ma il vantaggio di arrivare dopo è quello di aver ascoltato molte cose interessanti. Io sono qui per ascoltare perché sono veramente un blogger artigianale, questo ha inciso enormemente sullo stile più che sui contenuti, forse perché sono abituato ad avere un editore anche abbastanza, come dire, pesante alle spalle. Per esempio ha influenzato, io nel frattempo ho scritto un libro con un celebre campione e siccome sul blog uso normalmente dare del tu a chiunque sia, ad un'entità X che mi viene a, che viene a leggere le mie cose, ho trovato, cioè mi è venuta subito un'idea, quella di chiedere a questo campione di scrivere con lui un libro dando del tu al lettore. E è una delle pochissime cose azzeccate di quel libro, si è rivelata tale, e già questo, per esempio, posso ammettere che il fatto, la mia esperienza di blogger ha inciso su questa scelta. Qualche mese fa ho pensato di creare un blog, tra virgolette, istituzionale, che in qualche maniera andasse a colmare uno spazio generalmente considerato altro, sia dai lettori della Gazzetta dello Sport, sia soprattutto dai giornalisti della Gazzetta. In questo vorrei proprio prendervi ancora 30 secondi per una breve parentesi. Noi siamo all'età della pietra alla Gazzetta dello Sport, ma non perché siamo giornalisti sportivi. Secondo me molti giornalisti sono all'età della pietra. E quando io ho scritto, a proposito di quello che diceva Paolo, quando io ho cominciato a tenere un blog, se ne sono accorti, siamo in 170, se ne sono accorti in 2, in 3, mi guardavano anche abbastanza male quando si andava nei corridoi, camminavano rasente il muro perché temevano che io facessi del male. E adesso, quando ho comunicato a tutti, ragazzi, c'è un blog, se volete partecipare, la prima domanda è stata: scusa, che cos'è un blog? E a maggior ragione, io faccio parte anche del comitato di redazione del sindacato del giornale, a quel punto ho detto benissimo, ho deciso di inimicarmi tutti e ho creato un blog interno del comitato di redazione. L'effetto è stato che, il paradosso, questo piccolo blog che si chiama Quasi Rete, che si occupa prevalentemente di libri, di cultura sportiva, di teatro legato allo sport, insomma di cose un po' particolari, viene frequentato non dai giornalisti della Gazzetta dello Sport, e il blog istituzionale interno del comitato di redazione non ha ancora avuto un solo commento da parte dei miei colleghi. Quindi il mio, in un certo senso, è stato proprio un esperimento, un tentativo di scandalizzare, e forse ci sono riuscito. Io intanto che loro parlavano perdevo tempo andando in giro e quindi sono apparentemente distratto, nel senso che la molla la vediamo dopo. La questione della linea editoriale è abbastanza semplice, nel senso che la linea editoriale c'è comunque, nel senso che puoi dirla o non dirla, ma segui una linea. E io credo che questo sia forse un elemento, diciamo, connesso a qualunque forma di comunicazione ragionevole. Segui una linea perché decidi di raccontarti, di raccontare qualche cosa, di avere una disciplina. Secondo me la linea editoriale data dall'editore o data da te stesso è semplicemente una promessa di quello che farai, della credibilità e dei motivi per i quali vorrai essere valutato credibile. Per cui secondo me questo poi alla fin fine, siccome il blog è molto personale, diventa, la linea editoriale diventa una forma di identità che uno si dà, può essere più o meno pubblica, più o meno personale, più o meno problematica, più o meno densa, più o meno semplice, può essere una maschera unidimensionale oppure una ricerca diciamo aperta intorno a quello che sei e a quello che vuoi dire. Per cui secondo me queste sono tutte possibilità e sono tutte linee editoriali, non te la dà qualcun altro. Questo sulle prime produce una sorta di vertigine dell'eccesso di libertà, poi ti passa e stai benissimo. Però questo l'ho detto dall'inizio perché in fondo siamo partiti con l'idea che sia un fatto individuale il blog. Io penso sulla linea Del resto anche in altre cose ho seguito la linea di Baldemarin, su questa vorrei approfondire un attimo quello che ha detto lui, perché il tema della molla in realtà è un tema non solo personale, ma è un tema collettivo, comunitario, conversazionale. Cioè tu non è che vuoi fare un blog perché vuoi fare un blog per partecipare, perché quello che è interessante non è un blog. Quello che è interessante è l'insieme dei blog. E non c'è dubbio che l'insieme dei blog, appunto sviluppando un attimo quello che aveva detto Paolo, 30 milioni, 20 milioni di blog attivi che in media hanno 5-10 lettori, ciascuno di questi, visto dai giornalisti, è un irrilevante tentativo di produzione contenutistica. Ma ciascuno di questi ha 10 lettori, i quali 10 lettori sono tutti connessi con altri gruppi di 10. Nell'insieme questa è una rete che costituisce un medium totalmente interessante, perché è fatto fondamentalmente, è orizzontale, è fatto fondamentalmente da nodi che sono contemporaneamente produttori di contenuti, lettori di contenuti e antenne di trasmissione. Per cui questo è un medium, è l'insieme che è interessante. Quando questi chiacchierano di cose che i giornalisti con la puzza sotto il naso, come vedete il mio naso è abbastanza ampio da poter affrontare vaste quantità di puzza, il discorso si rovescia. Cioè, in realtà tu stai osservando un chiacchiericcio che di fatto è come un segnale elettrico che tiene insieme questo medium. Certo, chiacchiericcio, se sono interessanti per 10 persone, non è particolarmente interessante per grandi gruppi di persone, però per quelle 10 persone è interessante. Questo tiene insieme il medium, lo tiene insieme come se fosse un fatto così, di accordo generale, per cui si sta attenti a quello che succede su questo medium. Se questo è vero, quando passa un messaggio che i giornalisti possono considerare interessante, il medium è acceso e passa molto velocemente. In più passa con alcuni connotati interessanti, passa velocemente, passa con una dotazione di fiducia particolarmente alta, perché mi arriva di solito da uno dei pochi blog che io di solito seguo, quindi del quale ho fiducia. E in sostanza passa criticandolo questo messaggio, cioè non è che passa e basta, ma io lo ridico, quindi lo commento, lo critico, lo... questa è un'altra questione che è appassionante, straordinaria. Se tu guardi sui blog, la storia dei giornalisti e dei blogger è una specie di saga di guerre stellari, dove ci sono, non si sa ovviamente chi sono i cattivi, perché io sono tutti e due, però c'è un gruppo di blogger molto convinti che i giornalisti dovrebbero sparire dalla faccia della terra, ci sono un sacco di giornalisti che pensano che i blog non esistano, dunque li hanno già fatti sparire di default, e poi ci sono quelli che cercano di capire come si fa a parlare. Ti assicuro che questa parte è in crescita, sta diventando più semplice questo dialogo. Non voglio prendere troppo tempo, comunque l'ultima cosa che dico a questo proposito, perché poi questo dei giornalisti e dei blog può darsi che diventi un altro intervento successivamente se le domande vanno in questa direzione. Ma quando il famoso PDF di Calipari è stato liberato dagli omissis con una facile manovra digitale e messo in rete, perché uno di quelli che l'avevano riscoperto, Macchia Nera, aveva chiamato in redazione al giornale normale, non aveva trovato nessuno perché era vacanza e quindi l'ha messo sul blog, in quel momento la cosa è passata molto velocemente, i giornali non potevano non riprenderla, e ci sono stati due tipi di giornali: quelli che hanno detto macchia nera oppure i blogger hanno trovato questa cosa e abbiamo la possibilità di raccontarvi com'era il documento di Calibri, e altri che hanno detto lettori ci segnalano che, d'accordo? Quindi quelli che citano la fonte e quelli che non la citano, secondo me no, c'è un riconoscimento reciproco o un non riconoscimento, però secondo me fatalmente si andrà nella direzione di un dialogo e di una citazione reciproca abbastanza semplice. Chiaro che comunque di blogger ce ne sono moltissimi tipi, di gruppi che fanno uso della rete per motivi integralisti, tifosi di calcio, accesi ideologi di destra e di sinistra che hanno meno tensione verso il dialogo, ce ne sono tanti, quindi non occorre fare una generalizzazione assolutamente. Persona deve dire ti ringrazio di questa domanda. Mi rendo conto che ho avvertito la tua mancanza. Ritorna. Torna. No, ci sono. Cioè lì il punto è che io ho messo un link in alto a destra molto modesto, senza strillarlo, condurre i lettori, eventualmente che siano interessati, a dare un'occhiata a un libro in costruzione, cioè che io considero oggettivamente un insieme di appunti molto organizzato, frutto di una ricerca di 2 anni, ma fondamentalmente appunti, non meglio di così. Relativamente alla a una questione che secondo me è abbastanza significativa e poco indagata, cioè il fatto che c'è contemporaneamente ci sono due fenomeni grossi che stanno succedendo. Il primo fenomeno è che la ricerca in campo economico è orientata a sviluppare sempre più profondamente l'idea dell'economia del dono, dell'economia del gratuito, dell'economia, come si dice, della felicità, cioè quell'economia nella quale i beni relazionali, ambientali, culturali, gratuiti, quelli che sono quei beni che non hanno prezzo e che quindi sono enormemente importanti, i beni la relazione con le persone considerata come bene economico, ma ovviamente gratuito, perché è solo così che può esserci una vera relazione tra le persone. Questo tipo di filone di ricerca economica sta andando avanti, ormai ci sono anche 2 premi Nobel su questo filone, c'è una ricerca profonda ed è sicuramente un filone ancora poco che incide ancora poco nel nostro immaginario mediatico relativamente all'economia, cioè ne parliamo sui giornali, ma in realtà poi l'economia viene raccontata in termini di va bene se c'è crescita, va male del PIL e del sistema monetario dell'economia, va male se questa crescita non c'è. Secondo filone, che invece è quello di cui stiamo parlando adesso, è il boom, diciamo così, dei media relazionali, dei media che mettono in gioco persone che vogliono avere relazioni online in qualche modo e che con questo stanno costruendosi una dimensione di vita che per loro è più soddisfacente. Questi due fenomeni, media partecipati e l'economia della felicità, ho raccontato in questo libro. Che cosa sta succedendo del libro? Vedo dai agli accessi, che ha dei boom quando qualcuno se ne accorge, lo segnala e cominciano ad andarlo a consultare, e poi ha delle settimane di stacca. Effettivamente è stato notato anche da un editore che sta cominciando a cercare di convincere e metterlo anche sulla carta. Però credo che questa la parte più importante sia stato l'insieme di reazioni che ho avuto, commenti, contributi, segnalazioni, eccetera, che hanno indubbiamente arricchito quello che ero riuscito a fare. Okay, sì, ho lasciato parlare Luca perché insomma la regola del vantaggio mi sembrava che fosse interessante il discorso, quindi adesso magari gli altri approfitteranno delle idee rilanciate, perché questa Il vostro libro, esatto, e questo è lo scopo, vendere i nostri libri. E c'era Carlo che voleva fare un'aggiunta, solo una preghiera, quando intervenite se ci dite il nome, così capiamo, anche il nickname non è un modo per sapere chi siete. Volevo soltanto fare un'integrazione, scusate se banalizzo dopo quello che ha detto Luca, però volevo riprendere il tema del tessuto sociale, delle relazioni che si creano. Naturalmente parlo di quello che è accaduto a me, che accade a me ogni giorno. Due brevissimi aneddoti. Il primo, io non ho scritto essenzialmente per amici, ma ho trovato delle persone sulla rete. Attraverso il blog ho costruito un nuovo sistema di relazioni, una nuova rete, che per esempio è stata fondamentale quando ho pensato di creare il blog, tra virgolette, istituzionale della Gazzetta. Di conseguenza, ragionando sull'opportunità di lasciare i commenti aperti, sull'opportunità di moderarli a monte oppure di eliminarli, ho parlato con Giuseppe Granieri, con Paolo Valdemarino, ho cercato, ma tutto via mail o telefonicamente. Poi ad un certo punto ho pensato di mettere in rete il podcasting di una rubrica radiofonica di libri collegata al blog, e mi sono rivolto a Marco Tagliaferri, che ho trovato su internet e che io consideravo considero tuttora una delle persone più esperte su questo. Altro aneddoto invece questo qui, ad un certo punto, per cercare di capire quale potesse essere la risposta dei frequentatori di Quasi Rete, ho proposto il classico concorsino, o comunque il classico referendum: votate il libro che vi è piaciuto, il libro di sport. Si è creata una cosa abbastanza bizzarra, non nuova peraltro nel mondo dei giornali, e cioè alcune persone hanno chiesto, a proposito delle relazioni, ai propri amici di andare su Quasi Rete e di mandarmi la mail con la segnalazione del loro libro. Ha vinto un libro per un certo numero di voti in più rispetto ad un altro, e io ho fatto due considerazioni proprio su questo, e cioè guarda un po' su internet che cosa si verifica. Ricordavo tra l'altro un vecchio concorso che io ho lavorato tanti anni fa in un piccolo giornale, ho cominciato lì, che noi creiamo un concorso Vota la Commessa, e vinse una commessa con 15.000 voti. Il nostro giornale vendeva 1.500 copie al giorno e fu un successo straordinario, e praticamente su internet si era ricreata la stessa situazione. L'autore di questo libro, abbastanza piccato, mi ha mandato una mail che ho pubblicato poi su Quasi Rete, e curiosamente lo ha fatto in maniera molto gentile, molto educata. Ho creato con lui un dialogo via mail l'altro giorno, proprio per dimostrare che non sempre i blog producono notizie, ma in questo caso la ricevono. Lui mi ha fatto sapere che ha scritto un nuovo libro, sabato lo presenterà a Tarquinia, ed è la biografia, forse qualcuno di voi lo ricorderà, di un pugile che è morto a seguito di un match, che si chiama Angelo Iacopucci. Morì dopo un incontro con Alan Minter, un personaggio durissimo. Mi ha annunciato che per la prima volta Minter andrà ad incontrare la moglie in occasione della presentazione di questo libro, e nessuno lo sapeva. Quindi questo è l'altro sistema di relazioni che si può creare. Grazie. No, niente. Allora, tra l'altro, appunto, lavorando in due quotidiani, magari è meglio che fate la vostra parte prima degli orari. Adesso tra un po' dobbiamo decidere di se fare break o no, se tornare dopo il break o no, decidiamo insieme democraticamente. Quindi volevo appunto sintetizzare un po' quanto detto finora. Sicuramente la parte della partecipazione, cioè dei blog come medium di relazione, è la parte preponderante, e spesso appunto non si crede all'importanza che nella vita delle persone hanno le amicizie fatte in rete, ma a tutti gli effetti non è solo una questione di amicizia, è anche una questione di professionalità. Per esempio stamattina al corso che ho tenuto sui blog segnalazioni, da forme di comunicazione tradizionale, sono negli anni sempre più arrivati da contatti di blog. Per il 2006 probabilmente siamo al 100% del business arrivato tramite contatti di blog, e questo, essendo una consulente, forse più facile, ma probabilmente anche se sei un fruttivendolo, un pasticcere o un bed and breakfast o una banca, non so, questo forse un po' troppo avanti, può succedere. Quindi questo aspetto delle relazioni che si creano tra i blog è importantissimo ed è la molla principale, se dobbiamo riassumere e rispondere alla domanda. Io ho anche un'altra molla che non ha detto nessun altro, quindi la tiro fuori. Io non sono una giornalista, ma scrivo di lavoro, ho fatto la copywriter pubblicitaria per anni, ancora adesso continuo a scrivere. Il piacere per me di scrivere su blog è di scrivere come mi pare, ma non nel senso di quello che voglio, ma come mi pare, male, senza farmi capire, senza svelare riferimenti, non rileggendo, facendo gli errori di ortografia. Infatti è per me fonte di enorme meraviglia il fatto che qualcuno mi legga. riesca a leggere, probabilmente perché il mio unco blog, cioè siamo in due, quindi probabilmente c'è il vanto che riequilibra la situazione. Ma l'enorme piacere quando scrivi per lavoro, quindi quando sei sottoposto a questo stress abbastanza particolare di scrivere su commissione, l'enorme piacere di lasciare andare la penna, che in effetti è un regalo favoloso, a maggior ragione se qualcuno apprezza, perché lì veramente hai la possibilità di entrare in collegamento con delle altre persone su un livello quasi inconscio, cioè non dobbiamo parlare solo di informazione, di business, di professionalità, ma è un piacere umano. Non voglio mettere in imbarazzo, ma qui in sala c'è Valentina, che è mia amica, a cui abbiamo fatto aprire un blog quasi scherzando una sera dopo aver bevuto troppo. Io Valentina la conoscevo già, la apprezzavo già, ma poter leggere i suoi pensieri nel blog è fantastico, cioè scopri delle nuove dimensioni nelle persone che frequenti, magari anche di tuo marito che conosci benissimo, perché attraverso la mediazione della scrittura, del racconto, dello sguardo, riesce ad approfondire la relazione in un modo davvero impossibile prima. Infatti oggi ho definito internet come i superpoteri, di questa definizione mi sono innamorata, quindi la condivido, ma in effetti è un po' riuscire a usare internet, a vivere internet pienamente, ti permette davvero di poter fare qualcosa in più di chi la rifiuta o di chi un po' la snobba. Questo. Adesso volevo dare la parola per un'altra domanda e poi volevo farmi una domanda io, perché sui contenuti, riprendendo un po' quello che avete detto, gli esperimenti di Annese, che è stato il punto più, è una scrittura un po' diversa che hai appena detto, perché stamattina proprio su Maestrini per caso, mi sembra o ieri, no, c'è un altro modello molto interessante, quello della musica. Esistono i contenuti, vengono rinnovati costantemente perché c'è una grande creatività, il problema è quello della distribuzione sostanzialmente. Nella scrittura non è così, i contenuti ce ne sono molti di meno, e sostanzialmente quando uno vede che i quattro grandi quotidiani italiani escono tutti con la stessa notizia, spesso con la stessa fotografia, il fatto che i giornalisti raccontino una storia oggettiva fa un po' ridere, non ha veramente senso. I blog, anche se parlano a 10 persone, come è stato detto, secondo me stanno facendo questo grande esperimento di trovare dei contenuti, perché quando uno si mette a leggere i blog in generale, come diceva De Biase, dopo i giornali, non so, io se voglio fare la carta d'identità devo andare in comune, ci mancherebbe, però è una roba che veramente non mi interessa più, non credo più che mi dia l'informazione, sono le loro storie, mi raccontano di un signore che sta nell'aereo nel jet number one, mi dicono tutto, ma non mi dicono che mi stava mentendo per andare in guerra, me lo dicono dopo, per cui quella non sono più notizie, non sono più contenuti, è un'altra storia, è un romanzo che ci viene raccontato con i grandi poteri. Il modello della musica è diverso. Allora i blog, forse in questo momento, andando sulle passioni, secondo me, come ha detto, molto più che sul personale, stanno esplorando un'area, un modo di mettere insieme dei contenuti scritti diversa, che poi siano delle amicizie che nascano in rete, secondo me è verissimo, ma nascono perché è talmente concentrato la cosa di cui stai parlando, che non hai bisogno di un sacco di altre cose che nella vita quotidiana sono magari anche interessanti, però spesso ti disperdono, ecco. Mi interessava sapere quindi blog, contenuti, creazione dei contenuti, opposizione al modello della musica, il vostro pensiero. Ci sono altre domande, così ne raggruppiamo un po'. Buongiorno, sono Ghibellini da Varese. Mi interessava capire se, soprattutto anche da Mazzei, visto che pare che ne abbia fatti tanti di blog, quali sono gli elementi di insuccesso di un blog. Grazie. Io vorrei una cosa sull'influenza. Lei chi è? Professore. Il tema delle persone è interessantissimo secondo me, cioè io ho sempre rapportato i blog a qualche cosa scritto da persone, che poi giustamente diventi un medium, il lato medium vedendolo tutti insieme, è fondamentale questo. E una volta scrissi una cosa parlando di power to the keyboards, no? Riprendendo il famoso power to the people. Secondo voi questo potere probabilmente ancora teorico, le persone che hanno un blog che oggi finalmente possono in qualche modo attraverso dei link che si rimbalzano velocemente poter ambire ad avere una certa audience, anche se pur limitata, ma parlo di qualità dell'audience, non la numerosità assoluta. Secondo voi attualmente, in futuro, anche in Italia, come già ad esempio avviene in Francia, dove sappiamo che non solo numericamente i blog sono molti di più, ma iniziano davvero a impattare sulle elezioni politiche piuttosto che su qualche storia di aziende, eccetera. L'influenza, la vera voce delle persone riuscirà a contare qualcosa di più anche per mezzo dei blog? Direi che abbiamo abbastanza domande per partire. Partiamo da Paolo, dai, cambiamo ordine. No, io credo che... povero Marco. Credo che il tema della credibilità e la fedeltà delle persone di cui parlavi tu è la chiave in realtà, e che si ricollega sia al valore dei contenuti, sia al discorso che facevi tu prima sulla questione dei collegamenti e della fiducia. Il punto è, viviamo in un'epoca in cui gli strumenti di comunicazione tradizionali, soprattutto quelli delle aziende, stanno entrando in crisi. Il marketing tradizionale funziona sempre di meno, per un motivo molto semplice. Ormai noi ci rendiamo conto che la pubblicità mente. Cioè, l'esempio David Weinberger, che è un teorico, fa sempre l'esempio della stanza d'albergo, no? Dice, tu vedi la brochure della stanza d'albergo, vai in quell'albergo, vai in quella stanza, la stanza fa schifo, ma non ti meravigli veramente, cioè figurati se... Nessuno si aspetta che la pubblicità gestisca la verità, cioè nessuno si aspetta che il coso dentro la scatola di plastica sia come il panino sopra la foto sopra la cassa, la pubblicità mente. Però invece le persone no, e quindi quando noi andiamo su internet e troviamo il blog di Mauro che ci dice che è andato a San Francisco ed è andato in un certo posto a mangiare, gli credo, perché un po' perché lo seguo, un po' perché è una persona che interesse ha, cioè magari gli avranno anche offerto la cena, insomma non è che mi fido abbastanza da crederlo. In quest'ottica questo sta cambiando completamente gli equilibri nella comunicazione tra persone e imprese, tra in prospettiva partiti politici e imprese, nella comunicazione in generale. Oggi da noi si vede di meno perché comunque in termini di diffusione di internet, di alfabetizzazione informatica, siamo un po' più indietro rispetto ad altri paesi, però si sta incominciando a vedere anche qua. Cioè, se voi andate su Google e cercate tariffe Vodafone Internet, la prima pagina che trovate è la pagina di Vodafone che vi spiega quali sono le tariffe. La seconda pagina sono io che rompo le balle perché mi è arrivato questo telefono configurato male e ho speso che era una bolletta da 800 euro alla fine del primo mese. E alla fine la gente scopre che effettivamente che trova informazioni. Questo ha causato anche il fatto che le pubbliche relazioni di Vodafone mi abbiano chiamato dicendomi, sai, parliamo, mettiamo il posto. No, probabilmente non è più il secondo. Comunque mi arriva un sacco di traffico da giù. Anni spendi a costruire una reputazione. Non guardate. tutto è iniziato con un'azienda canadese che aveva incominciato a pagare dei blogger perché parlassero del loro prodotto. Anche dovevano pagare anche me, poi io non ho partecipato a questo progetto. Però io sono sempre stato favorevole a questo tipo di iniziativa nella misura in cui viene gestita in maniera trasparente e onesta. Cioè, io il weekend scorso sono andato a un evento organizzato da Ericsson, a cui mi hanno invitato a parlare, e sul mio blog ho raccontato di questo evento, dicendo: sono contento che Ericsson mi abbia invitato, sono stato in un bel albergo, ero troppo fino, è successo questo e questo e questo. Alla fine non credo di essere stato corrotto da Ericsson nel raccontare una cosa, nel raccontare questo evento, nella misura in cui ho detto quello che ho visto. Ho detto che, non sono stato pagato per andarci, ma anche tanti mi hanno pagato un weekend, quindi di fatto ho ottenuto qualcosa in cambio. Però chi legge abitualmente il mio blog si farà la sua opinione su quello che poi ho scritto. Tutto sommato è più trasparente rispetto a tutti i giornalisti che erano lì e che hanno raccontato queste storie senza dire che Ericsson gli ha pagato il weekend pure a loro e che cosa hanno ricevuto in cambio per raccontare questo evento nei pezzi che hanno scritto. Quindi una delle chiavi principali sono le relazioni, di nuovo, sono le relazioni delle persone, ma soprattutto perché molto spesso le relazioni tra le persone vengono percepite come più credibili rispetto alle relazioni che ci sono nei confronti del marketing o anche della stampa tradizionale. Sì, tra l'altro era quello che appunto accennava correttamente Marco Grossi prima, dicendo: un blogger parla di qualcosa se è interessante. Cioè, se voi tornate a casa stasera e avete trovato questo convegno normale, non ne parlate, cioè ne parlate se avete trovato fantastico o noiosissimo. Cioè, o vi lamentate o ne parlate bene, ma non siete obbligati a farne. I giornali devono riempire sempre lo stesso numero di pagine, il telegiornale deve durare sempre 30 minuti, quindi ci sono degli obblighi di riempire un formato che in rete di fatto spariscono. E questo rende un po' più interessanti a volte le forme di informazione spontanea di quelle professionali, a meno che le forme di informazione professionale non cambino, cosa che io credo che succederà. Cioè, io non penso che i giornalisti scompaiano, che i giornali scompaiano. Io penso che i giornalisti bravi impareranno, come ne abbiamo qui, non per parlare bene di chi è questo tavolo, ma abbiamo già numerosi infatti è tautologico. Abbiamo già numerosi esempi di giornalisti che hanno capito che questo non è un nemico, è un'opportunità, e quindi si stanno attrezzando per approfittarne. Chi altro vuole rispondere? Allora, soprattutto sul discorso quello dell'influenza che i blog possono avere su un prodotto, comunque su un mercato, su un argomento o queste cose, è secondo me un punto focale, e le aziende magari possono un attimino fuori tema, però era interessante focalizzarci un attimino su questo punto, che anche le aziende se ne stanno accorgendo comunque della potenzialità del passaparola, comunque del fatto che i blog parlino di qualcosa, nel senso che giustamente un'opinione scritta da un autore indipendente come può essere un blogger, a maggior ragione è qualitativamente importante, perché appunto non ha subito nessun tipo di influenza. Se mi piace lo scrivo, se non mi piace non lo scrivo, decido io come fare. E soprattutto per il fatto che quello che vado a scrivere su un blog rimane ricercabile su Google, non è come su un giornale che prendo la copia, la leggo, la butto via, invece rimane. Se io cerco, se parlo male di qualcosa e poi qualcuno cerca quell'oggetto su Google, probabilmente trova la mia opinione, la trova oggi come fra 20 anni. Le aziende stanno accorgendo di questo, diciamo, di questo passaparola e di questo modo che i blog hanno di influenzare il mercato, e si stanno muovendo per fare parlare di sé. Il caso, sempre parlando comunque di agroalimentare, scusatemi, è il mio campo in poche parole, un'azienda sudafricana, un Doek, ha assoldato, fra virgolette, un'azienda di marketing inglese per inviare un campione dei propri vini a dei blogger, diciamo a un'ampissima fetta di blogger francesi e inglesi, se non mi sbaglio, soprattutto inglesi, come semplicemente come omaggio, perché loro avevano aperto un blog. E alla fine questi blogger, ricevendo questi campioni di vino, queste bottiglie, hanno iniziato a scrivere in bene o in male, è buono, mi fa schifo, eccetera, eccetera, ma ne hanno parlato talmente tanto che questa azienda sudafricana ha incrementato le proprie vendite in Inghilterra di proprio tipo il 300%. che è un successo, è marketing sul, utilizzando i blogger, che poi sia una cosa che magari dal punto di vista diciamo così, dell'etica sia sbagliata, però ha fatto parlare di sé. E in Italia ci sono altri due casi, uno vabbè è San Lorenzo, ha chiamato il pesto dei blogger, nel senso che se tu scrivete a San Lorenzo, tra l'altro penso che il padrone comunque proprietario di San Lorenzo sia Tombolini, se mi sbaglio, giusto? Esatto. Ha fatto il pezzo dei blog, bastava scrivere alla San Lorenzo, scrivi un blog, loro ti mandavano un campione, comunque una scatola dei loro prodotti. Se il blog era tornato da almeno 6 mesi. Da almeno 6 mesi. Però fatto sta che ha funzionato e ne hanno parlato, e su internet è nata un po' la diatriba se dentro nel pezzo andavano usato gli anacardi o meno, perché era un po' la peculiarità di questo, infatti. Però loro utilizzavano gli anacardi, se ne è parlato, fatto sta che adesso comunque San Lorenzo, a parte che anche per altre iniziative, è un'azienda abbastanza conosciuta. È anche un'altra azienda di vini, sempre italiana, si chiama Castellari e Bergaglio, se non mi sbaglio, cosa del genere, fa la stessa cosa. Se hai un blog aperto da più di 6 mesi, ti manda i suoi vini e la gente ne sta parlando. Stanno utilizzando, esatto, e probabilmente ne parlerai anche tu alla fine. E fa un passaparola di gente che comunque... Esatto, di gente comunque che parla dei propri prodotti. In ogni caso anche le aziende stanno accorgendo che i blog sono un ottimo metodo di comunicazione, quindi un'azienda che avere il proprio blog si sta appoggiando magari anche in una maniera o nell'altra ai blog già esistenti, ai blogger, per potersi in qualche maniera far conoscere. Posso un attimo? Io sono. Sempre io. No, volevo dire, cioè, ho preso il prendo, vorrei prendere due, vorrei spiegare, io mi chiamo Flavio prima di tutto, l'unica cosa che vi dico, l'altra cosa che vi dico per via della privacy, mi fa piacere perché lei ha parlato del fatto che anche le banche però potrebbero, così, beh, io lavoro in una banca, lavoro nel marketing di una banca e sono qua per interesse professionale per quello che stava dicendo lui, nel senso che stiamo valutando effettivamente un canale più che altro di ascolto dei clienti. Volevo soltanto dirvi questo. Quindi mi fa piacere che anche voi abbiate colto questa cosa, più che altro piacere a me di averla colta all'interno, ecco, perché è stata una cosa che ho proposto, diciamo, io all'interno della banca. Non vi dico la banca qual è, per le banche. Siamo circondati dalle banche. No, se ci pensate, tra le aziende che stanno cercando attraverso la pubblicità di promuovere l'idea della comunicazione personale, c'è una banca che fa la pubblicità in cui dice che c'è più Marta e meno Barca, per cui c'è questa idea di cercare di presentare l'azienda non come un ente anonimo, ma come un ente fatto di persone, perché crediamo alle persone. Poi quella che è pubblicità è una banca che sta appunto cercando, visto che ha una sua figura un po', ma la linea chiave non è la pubblicità, la linea chiave sarebbe prendere delle persone dentro la banca e raccontare la banca da dentro la banca, perché alla fine quello che sono la sbagliata dove fare di relazioni segrete. No, parlando troppo, quel mafia mi ha già... quella mena, però dico, allora, le domande sono tre da mettere insieme, peer-to-peer e musica, e il potere, l'influenza, la democrazia e la banca, sembra che non c'entrano niente, ma ci sono unificati da una serie di cose. Io vorrei velocissimamente ricordarvi il libro di Kosinski che si chiamava Presenza, dal quale è stato tratto il film Oltre il giardino. C'era un tizio che era stato allevato in una casa nella quale lui era chiuso, non conosceva nessun altro che il suo padrone di casa, il giardino che lui coltivava, e vedeva il resto del mondo solo attraverso la televisione. Quello era molto influenzato dalla televisione. Immaginati di vedere la televisione, guardando la partita dell'Italia, insieme con i tuoi amici, chiacchierando e bevendo la birra. L'influenza della televisione, dell'opinione di Pizzulo, di chi c'è adesso, a parlare del calcio, è più bassa. Perché? Perché mentre lui ti dà questo messaggio, questi qua hanno una comunicazione orizzontale. D'accordo? Commentano, dicono, ma guarda che cavolata dice questo, eccetera, no? Giusto? Allora mettila questa in grande. Un popolo che ha un canale televisivo 6-1 e un sistema di comunicazione molto intelligente, strutturato, con nessuna possibilità di comunicazione orizzontale, è molto manipolato. Lo stesso sistema televisivo, ma che ha di fronte un popolo che parla orizzontalmente, ha meno potere. Quindi secondo me questo è il tema. La musica, i ragazzi fanno il 90%, l'80%, mi dicevano un'azienda di telecomunicazioni non enorme ma con una vasta rete in Italia, l'80% dei beat che passano tra la rete internet sua sono i ragazzi che si passano la musica, i film, eccetera. No? 80%. Vanno veloci, insomma, la gran parte. Questi stanno costruendo un pubblico orizzontale che si occupa dei suoi affari in maniera pari, si chiama peer-to-peer, tra pari, no? Una rete orizzontale. Questa cosa è obiettivamente diventata enormemente potente nei confronti del sistema della musica, che ha in 7-8 anni cambiato il modello di business. E la EMI l'altro giorno ha detto: io darò la musica gratis, basta, non la faccio più far pagare, basta che la vedano con uno spot pubblicitario. No? Questi sono cambiamenti grossi, quindi il potere lì si è manifestato in maniera cristallina, il potere di questo mondo orizzontale, che sì, certo, ha fatto anche una specie di rivolta contro i prezzi delle major, però poi alla fine si è fatto sentire. Per cui direi che non vado troppo lungo su questa cosa qua, ma vorrei lasciarvi con un'idea, cioè questo è un pubblico attivo, i blog sono un piccolo laboratorio di un fenomeno che sta diventando veramente importante, che è il fatto che la gente abbia un sistema mediatico orizzontale. Questo è molto importante, il pubblico attivo ne sentiremo parlare sempre di più. Per quanto riguarda la banca, sono certo che il primo passaggio debba essere quello dell'ascolto, perché una banca è un sistema, non direi irriformabile come la pubblica amministrazione, ma insomma molto lento a essere riformato. E se solo invece di pensare a dare messaggi cominciasse anche ad ascoltare, questo determinerebbe dei feedback assolutamente evidenti. Per esempio, dato che la banca, non nel suo caso, sicuramente non in quello di quelli che sono qui presenti, ha uno stile di management che è al 90% orientato al paraculismo e al 10% a prendersi dei rischi, di fronte al fatto che il pubblico si incavola, protesta, parla, dice io non ci credo a loro, oppure c'ha delle altre cose, oppure legge sul mio blog il fatto delle 50 euro che ve lo racconto un'altra volta, dice cavolo, io devo fare qualcosa. A quel punto succederà quello che già Valdemarin, che sta in California, prevede, e cioè che la banca comincerà a dire aspetta un attimo, devo fare qualcosa di più oltre che ascoltare. e vedrai che comincerai a dare un'occhiata a quello che fa la Microsoft con i suoi programmatori e quant'altro. E questo è meglio non fare. Però dico una cosa semplice e veloce. Quello che sta succedendo è che sempre di più quello che una volta era un target passivo di comunicazione di tipo pubblicitaria sta diventando attivo, e nel diventare attivo vuole conversare. Un libro che poi lei citerà, sei lavori di SBN, dice Markets are Conversations. I mercati sono conversazioni. Allora, poi il punto è molto semplice. Voi state parlando ad un pubblico che ad un certo punto sta incominciando una conversazione, sta incominciando a parlare e sta parlando anche di voi. A questo punto voi potete far finta di niente o partecipare a questa conversazione. Diciamo che la prima scelta potrebbe non essere molto saggia. Oggi, nel momento in cui questo pubblico è tutto sommato piccolo, la cosa forse si può anche fare. Però tra un po' diventerà sempre più difficile, tra un po' non partecipare a una conversazione sarà rischioso, e quindi diventerà importante certo ascoltare, ma anche partecipare, cioè a un certo punto spiegare. Cioè, se siete più Marta e meno Barca, sarebbe bello che Marta ogni tanto ci dicesse o mangi i piedi e sta qua a contare le banconote 50 false e poi andare su sopra e scoprire perché mi rovina la manicure, no? Tra l'altro mi sembra il momento per fare la mia domanda, cioè quella che mi incuriosisce davvero fare, sì. No, volevo prima di tutto ricordare che in questo momento abbiamo 6 ministri con un blog nel nuovo governo, di cui 2 possiamo considerarli dei blogger veri, non so se sono troppo ottimista. Gentiloni e la Lanzillotta, il ministro delle comunicazioni, però pare che il ministro delle comunicazioni abbia un blog e che ci scriva. E il giorno dopo essere diventato ministro ha detto non lo so se posso ancora avere un blog, che era anche una cosa carina da leggere. Com'è. Infatti è una cosa che io sono curiosa di vedere come va avanti, perché è già in difficoltà chiaramente. Perché gli abbiamo già chiesto il wifi, gli abbiamo già chiesto di agire contro telefono, gli abbiamo chiesto e lui ormai la conversazione l'ha iniziata, non è che la può chiudere. Staremo a vedere. E vabbè, è come un'interrogazione parlamentare chiusa. Se lo chiude è una brutta risposta. Ha risposto a un altro blog, come gli ultimi post è stata la risposta ad un blog, però comunque la domanda era, che davvero vorrei che rispondesse tutti, continuiamo a lamentarci di come le aziende comunicano. Visto che io sono sempre sul doppio versante, cioè da un lato sono una blogger, ma dall'altro sono una consulente di marketing e comunicazione, mi piacerebbe sapere da voi come vorreste che le aziende parlassero con voi tenendo conto del mondo reale, cioè di quali sono i limiti di cui appunto il signore si è fatto carico oggi, cioè considerando appunto che le aziende devono vendere, devono fare profitti e che responsabile comunicazione deve rispondere alle telefonate e qui mi chiedono conto di quello che sta facendo, come pensate che le aziende dovrebbero fare comunicazione oggi? Quindi partiamo da Marco stavolta. Pur essendo ovviamente entusiasta di questo mondo, in questa fase ho anche qualche paura rispetto alle aziende, nel senso che gli esempi fatti di San Lorenzo sono esempi nobili, belli, bellissimi, eccetera. Spero che in questa fase di euforia non ci sia, come dire, non ci siano dei tentativi un po' goffi a questo punto di entrare in questa conversazione in un modo appunto goffo che poi rovina un po' il giocattolo per tutti, perché è sicuramente vero che certo che se domani inizio a scoprire che su internet tutti i proprietari di alberghi iniziano a mettere commenti favorevoli sulle proprie, cioè se a un certo punto le aziende iniziano a fare delle operazioni mirate di comunicazione su internet a Amazon. Senza che venga fuori. Ah, secondo me non è una cosa impossibile. No, è soprattutto impossibile, perché si muove San Lorenzo, un conto, che è una vera fantastica cosa, San Lorenzo. Domani si potrebbe muovere qualcun altro. Non ti sto dicendo che succederà, ma sto dicendo che in questa fase. Ma sta succedendo, Allora, io questa settimana, negli ultimi 7 giorni, ho ricevuto 2 email. Uno da LG, che attraverso una società che si occupa di buzz marketing mi ha tentato di invitarmi a un'iniziativa per parlare dei loro prodotti. E uno da parte di Yahoo, il quale dice: la prossima settimana organizziamo un evento sul web 2.0. Non è che per caso conosci qualche altro blogger da invitare? Io non sono ancora tornato a casa da quando ho ricevuto questi email, ma ho intenzione di scrivere un post sputtanando entrambi dicendo: è ridicolo che della gente pensino effettivamente di fare comunicazione in questo modo. Adesso, quello succede, indubbiamente qualcuno ci cadrà, ma quando nella grande rete tu farai una ricerca, troverai uno che dice: ah, questi telefoni LG sono veramente una figata, belli, però troverai anche mattina, che ho scritto la settimana, gente che dice: sì, l'LG ha tentato di corrompermi per fare le loro rete. Non ti sto dicendo che succederà, ti sto dicendo che secondo me siamo in una fase da questo punto di vista un po' delicata, che può essere bellissima, nel senso di aziende che imparano a comunicare, che rispondo anche a Maffe, a comunicare con me come consumatore come io vorrei, quindi mi comunicano le cose che precisamente mi voglio sentir dire, mi dicono dove posso trovare le camicie che sono giuste per me, che non sono lunghissime di maniche o che non mi arrivano al ginocchio, mi comunicano le offerte che mi interessano come consumatore, io gli do anche il mio numero di cellulare, se mi mandano un sms dove mi dicono: oggi pomeriggio vai in quel posto e trovi le €30. Quindi io gli do tutto di me se mi fanno arrivare delle comunicazioni che effettivamente mi servono, mi fanno risparmiare dei soldi e quant'altro. Quindi questo è, come dire, è la parte bella, quindi aziende che comunicano con me perché mi conoscono e conoscono le mie esigenze. La parte, secondo me, proprio in questa fase precisa, un po' pericolosa, è che questa ansia da ingresso nella conversazione non produca degli effetti poi sgradevoli. Poi speriamo che non succeda, però secondo me in questo momento siamo da certi punti di vista un po' al bivio. Io non so, io sono piuttosto dubbioso. Io ho condotto una mia piccolissima ricerca sull'utilizzo dell'email da parte delle aziende. Ho semplicemente scritto a una trentina, una ventina di aziende, adesso non mi ricordo, chiedendo un ipotetico appuntamento, parliamo sempre di vini, ovvio, e ho avuto aziende presenti su guide nazionali, quindi medio-grandi, con siti internet aggiornati, e ho avuto meno del 60% delle risposte a una settimana, che trovo una cosa scandalosa. Trovo scandaloso il fatto che se un'azienda è su internet, ha un'email, non risponde all'email, non fare sito internet, non pubblicare l'email, punto e basta. Sono molto, molto, molto, diciamo così, deciso su questa mia opinione. Per cui sono molto scettico su come poi le aziende si possono muovere in maniera, a parte San Lorenzo, i casi che conosciamo, in maniera agile nel mercato dei blog e della comunicazione. Per secondo me siamo molto, molto lontani da riuscire ad avere delle aziende che hanno una filosofia molto vicina all'utente, alla comunicazione one-to-one, quale può essere quella appunto di un blog, eccetera. Anche perché ci sono proprio dei casi dove le aziende sono mosse proprio in maniera completamente sconsiderata. C'è stata poco tempo fa una polemica su dei prodotti e l'azienda sul quale quel prodotto era stato criticato, piuttosto che comunicare sul blog di questa persona la propria opinione, ha fatto un'azione, e si parlava forse addirittura di Papero Giallo, adesso non mi ricordo, proprio di Gambero Rosso, ha fatto un'azione legale chiedendo di togliere questo post incriminato. Logicamente il blogger l'ha tolta, però questa azienda, scusate il termine, si è sputtanata tutto il resto dei blogger, perché tutti ne hanno parlato male e si sono mossi veramente in una maniera. Se l'informazione era sbagliata, ma era un'opinione, era una critica a un prodotto, in maniera molto semplice. Sì, sì, certo, no. Bravissimo. Era quello della grappa, infatti. Diceva che la grappa secondo me era cattiva perché conteneva troppo etanolo. E al gusto. Ed era, vabbè, comunque si sarebbe mosso meglio il produttore se avesse risposto, commentato, se avesse fatto una comunicazione molto in maniera molto tranquilla. È un po' quello che tutti adesso in maniera furba stanno facendo quando ti arrivano le linee in casa. Gli parli. non è più della porta in faccia, perché comunque anche loro sono un attimino furbi. Purtroppo con aziende ancora no. E quindi facendo cancellare per ingiunzione questo post, tutto il resto dei blog, logicamente, chi ha messo in 3 secondi la cache di Google, dove comunque il post era leggibilissimo, chi ha fatto una JPL, una cosa altra, e insomma il nome di questa azienda. Non esce bene per nulla, non esce. No, non, secondo me sono mosse molto molto male. Quindi penso che appunto non ci sia molto la cultura aziendale di muoversi verso una comunicazione di questo genere. Logicamente poi ci sono delle, secondo me, delle qualcuno che in maniera molto lungimirante si sta muovendo bene con blog aziendali, con blog personali, in cui cercano di comunicare le proprie quello che fanno, sempre stando molto attenti a non fare pubblicità spudorata, perché poi viene inteso nella maniera opposta. È sempre difficile comunicare aziendalmente con un blog senza superare la soglia fra la comunicazione di quello che fai bene e una spudorata sponsorizzazione dei propri prodotti. Come vorrei che comunicassero le aziende, però ti rispondo non da giornalista, non da blogger, ma da persona qualunque, e vorrei che comunicassero in modo più, non meglio, ma in modo più responsabile semplicemente. E faccio due distinguo. Ci sono le grandi aziende hanno dei seri problemi di comunicazione in questo momento. Io per vicenda personale ho a che fare con la comunicazione. La comunicazione di gestori telefonici in particolare, e sono molto arrabbiato, perché io ricevo, sono due casi diversi, non mi dilungo perché sono casi personali, quindi è andata male a me, sfortuna, però io ricevo 3 telefonate al mese da un gestore che cerca di farmi abbonare alla sua DSL, poi questa DSL io ho chiesto di farla, ci ho messo 3 mesi per non riuscire a farla e continuo a ricevere le chiamate di questo gestore che mi chiede di abbonarmi alla sua DSL, questo mi crea qualche arrabbiatura. Oppure c'è l'altro gestore con cui ho un'altra DSL che non funziona ed è comunicazione anche gestire i flussi di ritorno dai clienti che ti dicono guarda che c'è un problema, ed è un problema perché questi flussi vengono gestiti sì oggi, ma solo a un livello molto base, per cui il singolo problema viene affrontato poi risolto, se non si risolve ripresenti il problema, viene affrontato e viene presumibilmente risolto, se si ripropone si va avanti all'infinito, che è quello che sta succedendo a me. Manca un livello superiore in cui ci si rende conto che forse il problema sta oltre, sta nella storia di un cliente. La storia di un cliente raramente viene presa in considerazione, cioè nella migliore delle ipotesi si prende in considerazione il caso contingente, ma non il quadro completo. Capisco le difficoltà di un'azienda di telecomunicazioni grande come quest'ultima di cui sto parlando, però capisco anche la mia ragione di cliente di essere preso in considerazione, essere preso in considerazione in modo sensato da cliente, cioè pago per un servizio, vorrei essere preso in considerazione in modo responsabile. E questo è il lato delle grandi aziende che hanno tutta una serie di problemi dovuti sia alla loro dimensione sia a una forma di gestione dei feedback che forse non è più così funzionale o ha comunque qualche problema di organizzazione interna. Sono costi che immagino spaventosi, però forse una volta ci si metteva una settimana in più, ma le cose si risolvevano meglio. Poi ci sono le micromarche. La persona che sta dietro San Lorenzo, che abbiamo citato tante volte, parla di micromarche. E sono tanti casi, da San Lorenzo in poi, di piccole aziende che riescono a far parlare di sé al di là di trucchetti che possono essere più o meno auspicabili, tipo regalare il vino piuttosto che il pesto, ma soprattutto raccontando la propria realtà. Faccio un esempio che mi piace molto anche perché lo sto vivendo in prima persona. C'è una fattoria in Molise che ha organizzato un abbonamento annuale al proprio orto, cioè questi lavorano in Molise sul proprio orticello, un'azienda piccola a cui bastavano 50 abbonamenti annuali per avere garantito il finanziamento del proprio orto. Li ha trovati attraverso il blog, ha raccontato quello che avrebbe fatto, ha messo a disposizione tutti i conti che giustificavano il costo dei abbonamenti. Gli abbonamenti sono partiti e dal blog questa azienda racconta giorno per giorno come stanno. A me abbonato questa cosa può interessare, io che usufruisco di un loro servizio può interessare sapere come si stanno muovendo, quali problemi hanno e quali implicazioni ci possono essere nel loro modo di fare affari, perché mi riguarda. Questo è chiaramente facile in una dimensione molto più piccola, però forse è una strada. No, in realtà è la strada per tutti. Nel senso che, per fare un esempio, Microsoft, che è una grande azienda cattiva notoriamente, adesso ha qualcosa come 2400 persone al proprio interno che scrivono su dei blog e che sono in gran parte programmatori che parlano, che raccontano il proprio mestiere ad altri programmatori. Fondamentalmente l'interlocutore in questo caso è la comunità degli sviluppatori di software che lavora su tecnologia Microsoft. Nell'ultimo anno Microsoft ha già ritardato di 2 volte l'uscita della nuova versione del sistema operativo. Però paradossalmente questa notizia è stata presa tutto sommato con una certa filosofia da parte degli sviluppatori. Per 2 motivi, perché se lo aspettavano, perché sapevano, perché si rendevano conto delle difficoltà che c'erano dentro quell'azienda. Cioè, paradossalmente, non dico che se tu avessi ti rendessi conto della complessità che ha Telecom nel fornire l'assistenza tecnica ai propri clienti, saresti più ben disposto a nei confronti. Però forse l'affronteresti in maniera diversa. Il fatto di avere qualcuno che non ti risponde e a cui tu racconti un problema e ogni volta che richiami devi riraccontargli completamente il problema e dici eppure esistono le soluzioni tecnologiche per risolvere, non riesci a relazionarti. Probabilmente se il meccanismo di interazione fosse diverso anche in termini di trasparenza, quindi ti rendi conto che stai parlando con uno che in realtà ha un contratto a progetto, non si capisce bene quale sia il progetto, rispondere al telefono, sta dall'altra parte del mondo, non ha la minima idea di chi tu sia e francamente per quanto possa avere una relazione con una persona non è in grado di aiutarti, ti relazioneresti in maniera diversa. Io sono cosciente di questo, infatti non me la prendo sì, mai con i posti con la persona. Sono anche teneri, perché poi di solito quando c'è qualche problema oppure ti chiamano per la quarta volta in un mese per proporti lo stesso servizio che non ti interessa e quando dici che non ti interessa ti chiedono perché non è interessato, sono fatti miei. Oppure dici mi avete già chiamato e loro ti rispondono ma non ero io, ero mio collega Francesca o Luigi, per me è sempre Sky, Tele2, Telecom, Wind, no Wind non mi ha mai telefonato in effetti, sempre loro chiamano. Io capisco che i singoli, cioè chi si espone, le persone con cui ho a che fare sono le pedine di un gioco molto più grande che ha molti problemi. Io quello dico, il gioco ha molti problemi, vorrei che si affrontasse e la gestione della comunicazione nel suo complesso. Poi se sapessi che dietro al mio problema specifico ci sono tutta una serie di implicazioni tecniche e me le spiegassero, sarebbe un grandioso passo avanti, perché vorrebbe dire che qualcuno ha preso in considerazione il mio problema nel suo complesso, che non è la singola manifestazione ma tutta una serie di implicazioni sull'impianto. Esatto, ma voglio dire, se tu avessi informazioni sulla complessità della gestione della rete, forse diciamo ti relazioneresti in maniera diversa con l'azienda. Il problema è, noi, nella gran parte dei casi, la difficoltà principale è che le aziende negli ultimi 50 anni hanno sviluppato una comunicazione monodirezionale fatta attraverso un unico canale. Cioè le aziende, soprattutto le aziende grandi, comunicano attraverso un ufficio che si occupa della comunicazione che al limite si appoggia su un paio di agenzie esterne. Quindi le persone che stanno dentro l'azienda non parlano con il pubblico. L'azienda parla con il pubblico attraverso questo canale che è monodirezionale, cioè è un canale fatto per sparare un messaggio pubblicitario verso diversi tipi di target. Adesso cosa succede? Che una parte, per adesso piccola ma sempre più grande, di questo target non è più passivo ma incomincia a diventare attivo, per cui parla e vuole innescare delle conversazioni, market side conversation, cioè vuole in qualche modo avere a che fare con qualcuno dentro questa azienda. E non vuole avere a che fare con l'ufficio comunicazione, vuole avere a che fare con le persone competenti. Allora, quello che dovrà succedere, e che sta succedendo in aziende come Microsoft, ma anche in molte altre, è che l'azienda dovrà incominciare a cambiare la funzione dell'ufficio comunicazione e far sì che questo diventi il canale che insegna all'intera comunicazione, all'intera azienda a comunicare con il resto del mondo. Solo che questo è molto difficile e soprattutto non c'è ancora, non è diventato ancora sufficientemente prioritario. E il problema è, io parlo con tanti piccoli imprenditori, quelli che mi dicono, ah, ma io non ho tempo di scrivere su internet. Il fatto non è che non ha tempo, perché poi ha tempo di giocare a golf, ha tempo di fare un sacco di altre cose che non ritiene che sia sufficientemente importante comunicare. Nel momento in cui queste aziende, secondo me, verranno trascinate nella comunicazione dal pubblico. Cioè, se tu scrivi, fai la lista di quelli che non hanno risposto. Questo diventerà per loro motivo per incominciare a rispondere alla posta elettronica. Potresti quello che ha risposto. Sì, fai anche la lista di tutti, così per però le aziende, secondo me, verranno trascinate in una forma di nuova forma di comunicazione dal pubblico. Non arriverà dalle aziende la prossima rivoluzione della comunicazione. Scusate se come al solito banalizzo, ma qui tocca a me, perché sono quello meno scientificamente preparato. Quando mi hai fatto con molta sportività, infatti, e volevo proprio riferirmi alla Juventus per dare una risposta. Sapevo che avrei avuto questo tipo di reazione. Però, quando mi hai fatto questa domanda, ho così ricordato un paio di ragionamenti che abbiamo fatto in questi giorni in redazione. Cioè, credo che, per esempio, la Juventus, che si vanta di essere diventata una media company, che nel processo sul doping ha proprio difeso la necessità di essere produttivi e quindi di prendere le pilloline, oggi dall'esplosione del caso di Mogiopoli, delle intercettazioni telefoniche in poi, ad esempio, non ha colto la necessità di riapparire in un rapporto con il pubblico attraverso un rapporto molto più diretto e attraverso proprio un rapporto personale. Se per esempio si è scelto, stavamo proprio ragionando in questi giorni su questo, se deve essere John Elkann il nuovo simbolo bianconero, forse è il caso che John Elkann si esponga direttamente e attraverso un blog, attraverso il sito internet, che insieme a quello della Ferrari è nel mondo uno dei più cliccati in assoluto nel settore sportivo, può non soltanto raggiungere, quindi rilanciare un'immagine differente, ma riuscire a capire ciò che i consumatori di questa media company pretendono, si aspettano, sperano, sognano, cose del genere. La mia risposta a questo è, cioè, quando ho cercato di spiegare perché dovevano essere i blog a fare questa operazione, o potevano essere i blog, è partita da due casi specifici che probabilmente alcuni di voi conosceranno. Uno è quello dell'amministratore delegato della Ducati, che da alcuni mesi ha un suo blog e attraverso il quale ha deciso di riprendere o di creare una nuova linea di produzione dopo una lunga analisi con gli ducatisti, con gli appassionati di un certo tipo di mezzi, e si è reso conto nel corso del progetto seguito che c'era necessità, cioè che il pubblico degli amanti di quei mezzi avrebbero probabilmente preferito qualcos'altro, e ha cambiato dei pezzi, ha cambiato delle strutture e alla fine ha letteralmente, poi questo fa parte anche delle comunicazioni aziendali, ha ringraziato e ha spiegato il nuovo modello uscirà il giorno X e uscirà secondo quello che è venuto fuori dalla rete. Credo che questa sia una delle prime risposte. L'altra è una cosa ancora più, secondo me, particolare, perché anche perché arriva dall'America e quindi insomma noi siamo sempre molto indietro, ed è Mark Cuban, che è uno dei, credo, 100 uomini più influenti da un punto di vista economico, soprattutto nella tecnologia dell'America, che è il proprietario di Dallas Mavericks, che in questo momento, stanotte, cominciano a giocare la finale dell'NBA. E lui ha un blog, tra l'altro è prolisso in una maniera imbarazzante, scrive centinaia di migliaia di righe ogni giorno, in cui non soltanto spiega tutto quello che c'è, la strategia che sta dietro alle sue aziende, alle sue acquisizioni, ma addirittura ha creato un vero e proprio, come posso dire, laboratorio su internet per spiegare non solo perché ha scelto determinati giocatori, non solo perché vuole fare un certo tipo di politica dei prezzi, eccetera, ma come gestire i giocatori, come entrare in rapporto con loro. Quindi io credo, in realtà, hai perfettamente ragione tu, Paolo, quando dici che in questo momento c'è un rapporto troppo mediato. Probabilmente è un sogno, forse perché per me è molto semplice entrare in rete ed entrare in contatto con chiunque, ma credo che a qualunque livello si possa avere un rapporto molto più diretto con gli utenti. Questa la, se fosse stato invece che John Lapo, come sappiamo, quelle strisce bianche della Juventus, ma questa è vecchia. Io ho tre cose da dire, faccio in fretta, però il fatto dei 50 euro ve lo devo raccontare. Non ve lo racconto perché lo sapete già, però insomma quel fatto lì per me è stato molto importante, perché con la rete ho trovato cosa c'era dietro quelle 50 euro false che mi ero trovato in tasca, e quindi ho avuto la percezione fisica di quanto sia importante questa comunicazione orizzontale. Non avrei avuto altro modo per scoprire la verità se non, bella anche questa, andate a vedere, quelli che non l'hanno vista, per scoprire la verità. Ora, il punto è a che punto siamo in questo percorso, cioè quanto è avanti questo pubblico attivo, quanto la banca deve darsi una mossa o quanto le altre aziende devono darsi una mossa, perché è chiaro che lì la valutazione di questa questione sta nel fatto di capire se il pubblico attivo italiano è già così sviluppato da costringere le aziende a darsi una mossa, oppure se il pubblico attivo italiano deve ancora crescere. Io credo che, tanto per fare un esempio, io sono amico di Valdemarin, ammiro Valdemarin e credo che Valdemarin sia un faro nelle nostre cose, però la grappa Romano Levi su Google non c'ha manco, nella prima pagina non c'ha nessuna critica. Perché? Perché teoricamente dovrebbe avere un sacco di critiche, infatti tutti i blog ne hanno parlato, eccetera, però non sono abbastanza per spingere, per arrivare nella prima pagina di Google. Quindi logicamente quello è vero, ma noi dobbiamo ancora crescere molto come pubblico attivo in Italia. In Francia sappiamo sono già tanti, eccetera, ci sono tanti motivi per cui quelli sono già tanti, però in Italia dobbiamo ancora crescere. Abbiamo tutte le statistiche del pubblico attivo più basse, ci abbiamo meno pubblicità online, ci abbiamo più televisione, ci abbiamo un sacco di cose. Quello che è interessante da capire è che questo è un processo probabilmente irreversibile. Probabilmente il nostro pubblico attivo ha un senso, lasciatemi fare un gioco di parole, del pubblico inferiore a quello dei francesi, per cui si anche in quanto blogger gli italiani fanno un po' di più i fatti loro e un po' meno i fatti degli altri. Quanti blogger francesi ne abbiamo conosciuti si servono il resto del pubblico dedicando il loro tempo libero per andare a fare del lavoro di reporting serio sui fatti della circoscrizione, sui fatti della vita sociale, eccetera. Questo senso del pubblico che noi non abbiamo, non ce l'abbiamo manco nei blog. Il nostro pubblico attivo deve crescere, maturare, diventare più numeroso, attivo, sul serio, critico, e dedicare qualche cosa al servizio degli altri. Questo, la domanda è, succederà o non succederà? Perché se non succederà, le aziende possono continuare alla loro politica manipolatoria, nei rari casi in cui questo è il fatto. Se invece il pubblico attivo crescerà e diventerà sempre più influente, le aziende devono prendere in considerazione l'ipotesi di cambiare la loro comunicazione. Insomma, la nostra scommessa, la mia scommessa, è quello che vedo nei territori più avanzati della relazione tra aziende e pubblico: la musica, i media, i giornali. Parlerò subito del giornale a questo proposito. Qui il territorio è talmente grande del pubblico attivo che le aziende che si occupano di queste cose non possono non tenerne conto. Per quanto riguarda il mio caso, il giornale di carta non esiste che non tenga conto del pubblico attivo, cioè non esiste più. Stiamo parlando noi di Nova, ogni giovedì un euro in edicola, vi regalano anche il Sole 24 Ore, di scienza, tecnologia, design. C'è qui un valoroso collaboratore che ci porta delle pagine meravigliose. Da questo punto di vista abbiamo insomma tutti i territori molto avanzati dal punto di vista tecnologico e della visione del futuro, creatività digitale non soltanto. È chiaro che qui il pubblico attivo è particolarmente attivo, e se noi non ne teniamo conto siamo noi che sbagliamo, e infatti noi cerchiamo di tenerne conto. Abbiamo fatto un primo tentativo conversazione con il pubblico attivo, facilitato dal fatto che comunque io appena sono un blogger, tendo a essere dentro questo mondo abbastanza accettato, e quindi non mi è stato difficile cercare di proporre al mondo dei blog di conversare con il giornale. Il giornale ne dà conto, non dà lo spazio ai blogger fisso, cioè lo spazio dei blogger, e noi graziosamente te lo concediamo, ma ci ascoltiamo, facciamo cronaca di quello che dicono le persone del pubblico attivo, eccetera. Poi abbiamo fatto un primo tentativo di blog, andrà avanti, penso che sarà riformato, perché è importante che dopo l'esperimento si prendano le considerazioni. Però insomma, in totale, per un tipo di business come il nostro, che è fondamentalmente un giro di informazione con il pubblico attivo italiano è già sufficientemente forte da imporci un cambiamento strutturale nella relazione con il pubblico. Una comunicazione di servizio, abbiamo saltato il coffee break. Quindi, sì. Adesso Luca sta andando a chiedere se anche in ritardo possiamo approfittarne. Alcuni di noi ogni tanto si alzano perché vanno a fare delle interviste, ma poi tornano, quindi non sono non è che li abbiamo annoiati a morte, tipo Paolo adesso dovrebbe andare a fare l'intervista se vuole, e altri invece hanno del lavoro da fare, quindi stanno per lasciarci, ma quindi ciao Carlo, grazie.